Allora, punto nodale del nostro discorso, spero che lo stiate afferrando, è la differenza tra coscienza e metafisica. Come parola metafisica si intende una situazione, come dire, mentale, esistenziale, in cui non vi sia chiarezza, in cui domini il complesso e in cui domini la mancanza di riflessione. La tipica situazione metafisica è quella dell'amore, tipica situazione metafisica è quella della religione, oppure quella dell'io. Ricordatevi bene queste cose che vi dico. Nella situazione amorosa noi non possiamo riflettere, perché nel momento in cui cominciamo a riflettere entra prima di tutto in crisi l'idea se noi siamo amanti oppure no, eh? E per tutto il corso dei nostri rapporti sentimentali, ovvero della nostra vita religiosa, e sapete cosa aggiungo, siccome non abbiamo fatto cenno a questo, parlo anche della vita politica, perché per esempio ci sono talune persone che vivono il rapporto con la politica in modo metafisico, in modo religioso, no? Nel Partito Comunista una volta c'era un personaggio noto, che non fa partire naturalmente dai vostri ricordi, che si chiamava Giancarlo Baglietta, il quale diceva che sarebbe rimasto nel PC Berinde ac cadaver, che è il motto dei gesuiti di San Ignazio di Loyola, cioè come un cadavere, nel senso che avrebbe fatto tutto quello che il partito gli diceva. Tutto questo tipo di cose non appartiene alla nostra esperienza, direi, esistenziale. Questo essere legato a qualcuno o a qualcosa tende a cadere. Però è molto importante che capiate questa questione. Nel lavoro avviene questo, uno è legato all'altra persona come un corpo morto in qualche misura, lo segue dappertutto, no? Lo segue dappertutto. Poi magari soffre, ma l'idea di poterlo seguire dappertutto, di avere, come dire, consegnato a questa persona o a questa cosa la sua vita, gli dà un grande senso di sollievo. D'altra parte, abbiamo detto, nella dittatura viene qualcosa di simile. Anche noi, nelle dittature, consegniamo noi stessi al dittatore. E stavo pensando che se uno volesse andare, questo consegnare se stessi a qualcuno, ecco, già in Rousseau si notano cose di questo genere. Come Rousseau, leggevo l'altro giorno un articolo sul Corriere, interessante, l'ho detto che è sfuggito abbastanza, ma per quello che ho veduto era interessante, sull'origine del totalitarismo e Rousseau, insomma, totalitarismo privato e pubblico, lo chiamo in questo modo, privato e pubblico, perché anche un totalitarismo privato, no? Il fidanzato geloso ti induce, che male prende, ti induce a una sorta di totalitarismo privato, no? Il genitore severo che dice fai questo perché sì. Ecco, tutto questo è metafisica. Vediamo che invece era un altro il senso di questa parola. Metafisica vuol dire al di là della natura, no? Perché in fondo nel campo della natura c'è crescita, evoluzione, non c'è una incondizionata un incondizionato adagiarsi sulle cose. La metafisica è la morte. La metafisica è quella per cui gli aristotelici al tempo di Galileo non volevano guardare nel famoso cannocchiale. E se avessero guardato nel cannocchiale avrebbero visto che la Terra, no? La storia di Copernico, la Terra girava intorno al Sole, non il Sole intorno alla Terra. E allora Galileo diceva, ma guardate il cannocchiale lì, guardate, era quello che non. Chi si rifiuta di stare alle dimostrazioni, alle prove, è un metafisico. Il metafisico è impaziente. Il metafisico è, quando si allude a quel caso del celebre politico, Silvio Berlusconi, che ricorderete tutti, il quale diceva si perde tempo nel lavoro parlamentare. Questa è una frase veramente interessante. Si perde tempo nel lavoro parlamentare. Certo che si perde tempo nel lavoro parlamentare. E quindi dire però questo vuol dire sostenere i diritti della metafisica, i diritti della metafisica. Ecco, ora, l'opposto è la coscienza. Che cos'è la coscienza? La coscienza è un qualcosa, usiamo questa espressione, è un qualcosa che ha a che fare con la riflessione, con lo sguardo. La coscienza è sguardo, con la considerazione, con il sguardo, con il non accontentarsi dei risultati raggiunti. Quindi è esattamente, da questo punto di vista, l'antitesi della metafisica. E siccome voi sapete che per Valéry il punto sostanziale è questo, rifiutare tutto quello che è metafisica, quindi rifiutare, lo vedremo tra un attimo, la letteratura nella misura in cui è impegnata la metafisica, ed esaltare la ragione, che è proprio una reminiscenza di spirito illuministico. Valéry è un illuminista moderno vuol dire un illuminista che sente che ci sono molte cose intorno alla ragione che la ragione non può spiegare, ma illuminista lo è. Nella metafisica domina l'uno, nella coscienza domina il molteplice, nella metafisica amorosa domina l'uno, non avrai altro amato fuori da me. Ecco, e chi invece vuole amare molte persone è dalla parte della coscienza. È naturalmente una schematizzazione del discorso, così volutamente semplice, ma è così. Se io ho coscienza, se io rifletto, non posso amare una sola cosa. Non posso legarmi a una sola cosa. Ecco. Non posso servire una sola cosa. Questo è il molteplice, sta dalla parte della coscienza, perché la coscienza vede molte cose, quindi poi diventa in grado di scegliere tra A, B, C, D, eccetera, no? Mentre il metafisico non vede niente. Il metafisico è cieco. È chiaro? Il metafisico è cieco. Il cosciente no. Il metafisico ci dice c'è solo questo mio Dio. Si chiama Allah, mettiamo. No? L'Islam è uno degli esempi, da questo punto di vista, più straordinari che siano accaduti nella storia del mondo di metafisica, no? Cioè, c'è solo questo Dio, non vengo a patti con niente, non riconosco nient'altro. Chiaro il punto, eh? Benissimo. Dalla parte della metafisica c'è l'uno, dalla parte della coscienza c'è il molteplice. In verità il molteplice non è solo dalla parte della coscienza. Il molteplice noi lo troviamo in un'altra situazione della nostra vita psichica, molto interessante, il sogno. Il sogno. Nel sogno compare il molteplice, in questo senso specifico. Nel sogno io frequento delle persone che sono vive, ma al tempo stesso frequento delle persone che sono morte da molti anni, no? Nel sogno io sono impedito di muovermi, mi sarà accaduto, non riesco a fare un movimento, oppure nel sogno riesco con due passi a fare 100 km. No? Questa mobilità che il sogno prospetta è interessante, perché allora verrebbe da dire, vedi che non è soltanto nel dominio della coscienza che troviamo in molteplice, ma anche nel dominio di qualcosa che certamente con la coscienza non c'entra, e che è il sogno. Ma il molteplice del sogno a Valéry non interessa. E perché non interessa? Non interessa perché il sogno si esprime in un linguaggio che, come tutti sapete, è un linguaggio critico, è un linguaggio di rebus, un linguaggio da decifrare. E dice lui, se si sapesse la chiave per decifrarlo, beh, si fa, ma siccome non c'è la chiave per decifrarlo, che voi potreste rispondere che la psicanalisi invece dice che la ragione della molteplicità dei sogni è abbastanza semplice, cioè è l'inconscio che si esprime nella situazione onirica, no? Sì, ma lui non crede, non tanto all'incontro, lui non crede alla psicanalisi, non crede alla psicanalisi, non l'ha mai considerata, ritiene che sia fuorviante e quindi non la considera, non avendo la psicanalisi come strumento al quale riferirsi, ed è tutto evidente che non c'è una chiave di lettura dei sogni, e allora i sogni meglio, banalmente, lasciarli perdere. Adesso veniamo a un punto di estrema difficoltà, ma io spero di farlo capire. A me le orecchie e gli occhi soprattutto, vedete, più gli occhi e le orecchie, più gli occhi che le orecchie. Che cos'è la voce? Vogliamo dare una definizione? Sì. La daremo in questo modo. Io compio un atto che è scrivere. Posso sentire che sto scrivendo, no? Scrivo, sento che sto scrivendo. Leggo. Posso anche non sentire che sto leggendo, ma posso anche sentire, guarda, sto leggendo. Mangio. Io posso mangiare senza pensare a nulla, però posso sentire, guarda, sto mangiando. Penso, penso. Io posso pensare semplicemente a una certa cosa. Penso a questa ragazza che ho qui davanti, molto gradevole di aspetto, per l'incidenza. Attenzione! Ma posso sentire che sto pensando a questa ragazza. Posso pensare che sto pensando. È chiaro il discorso? La coscienza si definisce così. Io penso di pensare. Dietro questo verbo pensare potete metterci tanti altri verbi, scrivere, leggere, mangiare, no? Ma pensare, direi, è la formula più pregnante, dire io penso di pensare. Se io penso, questa non è coscienza, io penso è un atto assimilabile a molti altri atti. Mi leggo i lacci delle scarpe, io penso. Ma nel momento in cui io penso di legarmi i lacci delle scarpe, io penso di pensare, quella è la coscienza. Quindi la coscienza è una riflessione semplice sui nostri atti, il primo dei quali naturalmente l'atto che, come dire, tutti li riassume è il pensiero, va bene? Quindi io penso di pensare la coscienza. Attenzione. Dando questa formulazione, noi vediamo che nella coscienza c'è un elemento curioso, importante, che emerge. La coscienza è un fuori. Se infatti io penso di pensare, vedete che mi trovo, come dire, un passo fuori rispetto all'atto di pensare, no? E facendo gli esempi che vi ha detto la parola pensare, quella che riassume tutto. Io penso di mangiare, è come se facessi un passo indietro rispetto al mangiare. Passo indietro che mi consente di vedere che sto mangiando. È chiaro? Io penso di pensare, guarda, mi dico, ecco, sto mangiando, sto pensando. La coscienza è un passo indietro, la coscienza è un fuori. Bisogna, dice Valerino, una frase meravigliosa che mi permetterei di raccomandare alla vostra attenzione, bisogna sapere sporcare la testa. Bisogna, se dite questa frase meravigliosa, scrivetevela a capo del letto. Bisogna, dice Valerino, sapere negli occhi giovani, montarsi sulle spalle. È possibile montarsi sulle spalle? Poi può montarsi sulle spalle. Come farete? No, si rifletta un po'. E Stefania si chiama. Vediamo che Stefania è una ragazza, come tutte le ragazze, che ha le gambe di sotto. Allora, vediamo che Stefania decide di montarsi sulle spalle. Le spalle di Stefania sono qui. Lei bisognerebbe che si snodasse le gambe, mettesse, ma non riuscirebbe nemmeno a montarsi sulle spalle. Come fa? Lei riuscirebbe a montarsi sulle spalle, non è la reale. Lei? No. Cosa vuol dire montarsi sulle spalle? Vuol dire staccarsi da sé per guardarsi. Staccarsi da sé per guardarsi. Monsieur Test, di cui abbiamo veduto l'altra volta alcuni parti del componimento che lo riguarda, è uno che si guarda continuamente, si guarda e si controlla, per non dire parole che siano per esempio metafisiche, per essere coerente, le ricordate, che quando è a teatro cosa fa? Guarda la scena? Guarda gli altri, no? Immaginate come sarebbe, riflettiamoci con calma, fate attenta com'è la vita di una persona che si monta sulle spalle, cioè che si guarda a sé. Come si fa ad avere un rapporto con un amico guardandosi sempre? Sai che lei, non so, Alessandro, Alessandro? Alessio, ecco. Che sono le cose? Vabbè, no, questo fatto non è diventato cosa sta dicendo Alessio? Ecco, ecco un amico, mi dica il suo amico più caro. Nome? Simone. Non è per caso quel Simone che sta qui, no? C'è un Simone. Il Riccardo, ma non è questo, no? Allora, immagini di parlare con Simone controllandosi, no? Simone gli racconta una sua storia e lei gli risponde. Si controlla, si guarda. Dal scatto suo Simone fa la stessa cosa. Bene, che tipo di rapporto di amicizia viene fuori, secondo voi? Se uno si controlla e si guarda è cosciente continuamente. Cioè, sarebbe una sovrastruttura cognitiva proprio, quindi per una bella questa definizione, una sovrastruttura cognitiva, sì, ma da un punto di vista, ora mi chiedi affetto, ma mi chiedi parlando sull'affetto, che tipo di affetto ci sia? Se validerebbe forse proprio questo, se validerebbe l'affetto, insomma l'aspetto... Quindi vedi che l'eccesso di coscienza diventa affetto così, mettiamo che io faccia la prova con una ragazza, no? Voi dite, beh, alla sua età una ragazza, sì, per Dio. Mentre sto accostando lì, penso che sto facendo l'amore con questa ragazza. Questo pensiero è trascinante, per cui diciamo anche gli atti che sono legati alla espletazione del fatto sono interrotti. La ragazza dice, e allora? E io rispondo, sto pensando. Un blocco sospeso a mezz'aria, per così dire, perché ci sto pensando. E anche nell'espletazione del fenomeno, per così dire, penso. La ragazza sarebbe contenta? No. Avete mai fatto un esempio nelle vostre dissolutezze quotidiane? Se il vostro, lei ha un ragazzo, no? Se il tuo ragazzo la bacia, cosa che mi capiterà probabilmente 1000 volte al giorno, 2000 al giorno, con gli occhi aperti, lei è contenta o no? No. Cioè, magari uno pensa pure con gli occhi chiusi, ma sei assolutamente certo che se una persona ti bacia con gli occhi aperti, dice, ma questo non ha neanche, no? mi ricordo il mio barbiere, quando si sposò, che alla prima notte di nozze avevano un rapporto coniugale con dei fumetti, e aveva dei fumetti, è vero, aveva dei fumetti per eccitarsi, una cosa, guardate, assolutamente deplorevole, ma è la vera, assolutamente, quindi guardava questi fumetti qui e intanto agiva, una cosa tremenda. Lei accetterebbe un compagno che lei ha, ma sentiamo che anche lei decidesse di fare una cosa di questo genere, noi tempi lunici, anche una donna di in modo diverso, più elaborato. Allora lui da una parte con una mano legge i fumetti porno, e lei dall'altra parte, no? Oppure parla l'amore guardando due monitor con internet, lei vede le scene sue, lui nel senso, questo sarebbe una cosa assolutamente. Anzi, avete ragione di dire, ma come le leggo, mi dica questo, ma come le leggo questi pensieri? No, uno fa l'amore all'interno di un computer, di un macro elaborando, di un macro computer con due monitor, uno per lui, uno per lei, ma sarebbe altro che Viagra, no? E così dico bene. Ma l'eccesso di coscienza è pericoloso comunque. Perché prendiamo un caso in cui la coscienza sia massima. Non l'accostarsi, il copulare con la propria ragazza, il proprio ragazzo. Guarda come le sto prendendo la mano. Ma nel caso del fare una lezione universitaria, mettiamo che la coscienza, la coscienza del reale, mettiamo che sia totale. Beh, voi non siete professori universitari, non lo sapete. Sapete cosa vi dico? Se la coscienza è totale, la lezione tiene male. Perché la coscienza è sempre una sottrazione di vita. Mi seguite? Al posto di un epsilon di vita io metto un epsilon di consapevolezza. Cosa vi ho detto? Che la coscienza è un passo indietro. Quindi se una lezione universitaria, quindi un luogo in cui la coscienza deve essere massima, io svolgo un teorema, per così dire, filosofico, eccetera, eccetera, viene fuori qualcosa di penoso. Adesso vi faccio l'esempio di tre, ma se questo capita in una lezione di geometria analitica, io ho un fratello, un professore di geometria analitica, e lui mi ha detto che se fosse totalmente cosciente, è un paradosso questo, è un paradosso, la lezione riuscirebbe male. Perché? Perché in qualche misura non, la comunicazione, che sia che parliamo di cose di matematica, sia che parliamo di qualunque cosa, letteratura, filosofia, non ne parliamo, va bene, la comunicazione verrebbe diminuita. Quindi questa coscienza che la richiede fondamentale, tuttavia in certi casi diventa eccessiva, diventa mortuaria. È chiaro il punto? Bene. Oh! Adesso che abbiamo detto che la coscienza è un fuori, allora vediamo di immaginare una situazione di questo genere. Io penso di pensare, questa è la coscienza, e se io volessi fare un fuori ancora superiore, attenzione, io penso di pensare di pensare, come la vedete? Io penso di pensare di pensare. È possibile? Cioè, se c'è coscienza nel io penso di pensare, a maggior ragione dovrebbe essere coscienza nel io penso di pensare di pensare. Però se fate caso, mentre io riesco a immaginare io penso di pensare, non riesco a immaginare io penso di pensare, perché il secondo pensare e il terzo si fondono. E se io dicessi, io penso di pensare, di pensare, di pensare, questo è ugualmente inimmaginabile. Allora la legge dice che dopo la seconda potenza la coscienza è impossibile. Chiaro? La coscienza funziona al quadrato, io penso di pensare, ma al cubo, alla quarta potenza, non funziona. Perché non funziona? Perché non è immaginabile. E allora se ne ha una importantissima conclusione, che questo fuoco in cui la coscienza consiste, che è prezioso, deve però essere fondato sull'esistenza, su quello che noi possiamo effettivamente, concretamente sperimentare. La coscienza ha un senso se è fondata sull'esistenza, se no diventa un atteggiamento mentale sterile. Intendo dire, in questo modo, che la coscienza ha un senso quando è nel cuore dell'esistenza. Nel cuore dell'esistenza vuol dire che il fatto di esistere è ciò che mi dispone a essere cosciente, ma io non posso immaginare una coscienza che sia fuori dalle cose concrete. Io penso di pensare non è vicino. È chiaro questo concetto? Vi è chiaro a tutti questo? È chiaro? Bene. C'è una frase che dovete ricordare. Dice il nostro. Per spiegarvi bene che cos'è la coscienza, vi creo questo nesso. Pas de phénomène sans le moi. E pas de moi sans phénomène. Non c'è fenomeno senza un io e non c'è un io senza un fenomeno. Vediamo di che si tratta. Non c'è un fenomeno senza un io. Il fenomeno è ciò che appare, no? Quindi è del tutto evidente che senza un io che veda il fenomeno non è ammissibile. È chiaro appunto, perché è un io che vede il fenomeno. E vale l'opposto. Dio è un occhio aperto sul mondo, quindi quest'occhio vede tutto, quindi non è ammissibile che vi sia un io e non veda, è come un obiettivo aperto lì, quindi tutto quello che passa davanti lo vedrà, quindi non c'è fenomeno senza un io, perché quel fenomeno per essere tale deve essere visto da qualcuno, ma non c'è un io senza un fenomeno, perché io guardo sempre, va bene? Come vedete, in questo modo si fa sempre più chiaro come la coscienza è un qualcosa che ha a che fare con l'esistenza concreta. E quindi la terza potenza, io penso di pensare e di pensare, non sia concepibile. Ditemi che c'è qualcosa che non è chiaro in tutto questo. Io ho perfettamente ragione. Il soggetto che guarda, che è la mia in questo modo. Va bene. È tutto chiaro? Bene. Allora, attenzione a questo passo decisivo. Attenzione a questo passo decisivo. Quest'occhio che guarda, questo io lo chiamiamo in questo modo, questo soggetto che guarda, è proprio come una macchina fotografica, una telecamera che sta lì aperta. Le cose passano davanti, le vede, eccetera. Avete capito? Lo chiamiamo io, ma ha ragione perfettamente adesso Paolo dicendo che Valerio dice che l'io è un fatto metafisico. Io vuol dire soggetto pensare. Lo immaginate? È aperto, con un obiettivo fotografico. Quindi tutto parla davanti, eccetera, eccetera. E mettiamo che niente passi più davanti. Allora, questo mio obiettivo ci sarà ancora o non ci sarà più? Credete? C'è la coscienza, chiamiamola in questo modo, c'è la coscienza che guarda, c'è Dio che guarda, poi c'è una sinonimica in questo, va bene? Guarda che io sto scrivendo, mangiando, eccetera, eccetera. A un certo punto non c'è più mangiare, non c'è più una casa da vedere, non c'è più niente. La coscienza c'è ancora? Mi dica bene, è un bel pensiero questo. È dura, lo fate a casa, lo fate a casa. Chi potrebbe farlo una volta del genere a casa sua? Sono argomenti difficili questi. Poi no, io ero al bar, dobbiamo fare una domanda al bar. Capito? Questo io obiettivo, coscienza, chiamarlo come cacchio vuoi. Va bene? Guarda le azioni, mangiare, eccetera, eccetera. Poi non ci sono più queste azioni. E allora? C'è ancora la coscienza. In che forma c'è ancora? Come disponibilità allo sguardo. Avete capito? La coscienza non si annulla, dice in una delle sue cose più meravigliose, Paul Valéry, non si annulla nei suoi oggetti. L'io che guarda scrivere, non c'è più la scrittura e quindi l'io si annulla. No, no. L'io mantiene, per così dire, dovete immaginare implicitamente che questo obiettivo rimane aperto. Adesso non c'è nessuno che scrive, che mangia, eccetera, eccetera. Però ci potrebbe essere qualcuno. Quindi la coscienza rimane aperta. È una visione molto interessante della coscienza che in effetti non si esaurisce nelle cose su cui si affissa, ma è come una disponibilità che rimane in noi, una disponibilità che rimane in noi a guardare le cose che ci passano davanti. Va bene? La coscienza, dice Valéry, è esorbitante, è più degli oggetti ai quali si riferisce. Questo concetto di coscienza esorbitante è molto importante. Avete imparato le cose più difficili, adesso tutto quello che vedremo sarà più semplice di questo. Passiamo all'idea che lui ha della letteratura. Queste sono cose semplici, fate attenzione, ma potete, come dire, riposarvi realmente. Che cos'è la letteratura, secondo Valéry? È una simulazione di realtà, no? Simulazione di realtà. Oh, Madame Bovary, la conosce la storia di Madame Bovary? Madame Bovary è una signora che tradisce il marito con due uomini, dopodiché, sopraffatta dal senso di colpa e dai debiti, si uccide. Ma naturalmente se noi guardiamo Madame Bovary, Madame Bovary chi è? Sono due parole, Madame Bovary. Madame Bovary non esiste, no? Però la storia che noi abbiamo letto è una storia che può accadere una persona viva che noi conosciamo. Quindi la letteratura è una simulazione di realtà. Perché a uno viene in mente di fare letteratura? Per tre motivi. Primo motivo. Per dimenticare la merda di realtà in cui sto vivendo. E allora mi dedico alla letteratura. Mi dedico alla letteratura e leggo Federico Moccia. Quindi per dimenticare il mondo in cui vivo, io scrivo o leggo. Mi dedico alla letteratura. Secondo motivo. Perché la letteratura mi consente di sognare. Nel senso che la vita che mi sta intorno è una vita scandita dalle sue regole, dalle sue ristrettezze anche. Ma io nella letteratura posso immaginare di amare donne meravigliose. È improbabile che io abbia una contubernalità, abbiamo già trattato questo argomento, con Nicole Kidman. È improbabile. Oltretutto, come vi ho detto più volte, non è il tipo mio. Non è l'argomento ultimo. Diciamo così, va bene. Ma io posso scrivere un libro in cui io immagino, e vi assicuro che lo farei il libro in modo tale che Nicole Kidman fosse la realtà di la verità, in cui immagino di avere una meravigliosa storia con Nicole Kidman. Quindi la letteratura viene fatta per sognare, viene fatta per dimenticare la realtà che abbiamo intorno, viene fatta per sognare. La letteratura viene trattata per una terza ragione. Perché la letteratura mi offre poi cose belle dal punto di vista dei contenuti, della storia che mi ha raccontato, e dal punto di vista della forma. La letteratura, con Paolo De Francesca e Dante, mi ha offerto una storia d'amore. Va bene? E quando mi ha detto Dante, facendo parlare a Francesca, la bocca gli baciò tutto tremante, mi fa sentire qualcosa di bello. Io questo è desiderato, me lo ripeto poi tra me e me. La bocca gli baciò tutto tremante, con questo meraviglioso francesismo tout tremblant, che viene fuori, che viene dai provenzali, evidentemente. Quindi la letteratura io la faccio per costruire cose belle o per godere di cose belle. Sono tre i motivi che mi inducono a fare la letteratura. Il primo motivo, questa simulazione del reale, il primo motivo, vi ha detto, è il dimenticare la realtà, il secondo il sognare e il terzo è il costruire cose belle o il leggere cose belle. Ma questa simulazione della realtà, dice Valéry, che è la letteratura, è imprecisa, perché la realtà non è così come la letteratura la rappresenta. La realtà ha due cose rispetto alla letteratura. Primo, è molto più ricca, disordinata, caotica. Il romanzo, per quanto sia complicato, mi racconta una storia ben messa, con una sua logica, chiaro? Ma la vita non ha una sua logica. La vita è disordinata e caotica, più ricca, ma certamente è difficile orientarsi nella propria vita, mentre mi è facile orientarmi anche in un romanzo difficile, mi è molto più difficile orientarmi nella mia vita nel capire quello che è realmente successo, quello che ho provato, quello che ho fatto provare, capite? Questo è il primo carattere che ha la realtà di diverso rispetto alla letteratura. Il secondo carattere è questo. La letteratura è poetica, o può essere poetica, la bocca di baciò tutto tremante, no? La realtà non è poetica. La realtà di che è fatta? È fatta di rapporti faticosi, di momenti di soddisfazione, di noie, di pigrizie, di adattamenti, di stanchezze, neanche di grandi odi, ma di piccoli rancori, di piccoli dispetti, di piccole malignità. Se uno volesse raccontare così com'è la realtà in letteratura, ne verrebbe fuori qualcosa di noiosissimo. La nostra vita è noiosa. La nostra vita è noiosa. Due fidanzati che si raccontano la loro storia per cercare di comunicarsi i loro ricordi, dopo un po' la conoscono. E una delle tragedie delle coppie, di tutte le coppie di questo mondo, è che a un certo punto uno conosce l'altro bene e vede che la sua vita, quella dell'altro, è impoetica, solo che magari anche la tua è impoetica. Avendo a che fare con un materiale impoetico, uno comincia ad avere nei confronti dell'altro un senso che possiamo definire di compassione, di tenerezza. Pensate a quelle coppie in cui il marito, per esempio, racconta in pubblico sempre le stesse storielle, le stesse barzellette, e la moglie è costretta a subire questi racconti per l'eternità. Sa come vanno a finire queste storielle, sa come, quali sono i vizi, i tic dell'altra persona. Tutto questo è impoetico. La realtà è, primo, disordinata, secondo, in poetica, in questo senso si differenzia dalla letteratura. E allora, Valéry dice, ecco perché io non voglio la letteratura. perché la letteratura, che vuole essere simulazione della realtà e della vita, in realtà tradisce la vita. La mia obiezione, scrive, nei confronti della letteratura è la vita stessa. La letteratura è un tradimento della vita. Prendiamoci qui e poi qui, ma lì ci dobbiamo riprendere quello che dice.